Noia help. Noia help. Noia help. Noia help. Noia help. Noia help. Noia help. Sembra che la coda dell'occhio sia molto più attenta a fusolate bianca, o mentre sembra che l'iride mentano battendo ciglia, o sparata fissa al vuoto, esprime non a caso l'esigenza di un pensiero acuto, ma non mi aiuto quando in realtà rifiuto poca scansione del reale, assoluta percezione dell'ignoto. Abnego, io maledico, seguo un suono, lo seguo all'infinito. Sono proprio un pervertito, confido in lui, ne confido nel mio segreto. Sono proprio un pervertito, tetracoordinato con l'antico e il mobile, un bilico tra quadro, un diario, trovo un dialogo, c'è tempo, temporanea e metà tempo, lapidare fulminante, un divulgatore, no help, tots, bazzica, tre cobas, il San Bastiano del rap, e poi nuovamente sogno la crisi, osi per antonomasia, l'apoteosi delle mie mani, la noia, reggo le migliori cose ma prendo le peggiori, seguo se ho, seguendo un segmento, mi aumento soltanto giunta all'astasi del pianto, comprendo la parsimoniosa scesi al decadimento, deterioro me ogni tanto in tanto la mente, illumina alimento, tengo armoniche plausibili possibilmente, se ho la paura di non vivere da ignoti ma nell'ignoto vivo il mio declino, con la paura di non vivere da ignoti ma nell'ignoto, quante bugie da un uomo. Scappo da me, la mia realtà rimane ferma. Scappo